Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. La prima ad uscire allo scoperto un paio di settimane fa è stata il Banco Popolare, ha chiesto 1 miliardo e 400 milioni di euro, poi Unicredit per un importo non ancora esattamente individuato, forse 1 miliardo e mezzo di euro su 4 miliardi complessivi chiesti tra il governo italiano e quello austriaco. Poi è arrivata Banca Intesa San Paolo, 4 miliardi di euro. Stamattina sul Sole 24 Ore si cita anche la Popolare di Milano che potrebbe chiedere 500 milioni e Banca Carige che avrebbe in mente di chiederne 400. Di cosa stiamo parlando? Cosa chiedono queste banche? Chiedono di emettere i cosiddetti Tremonti Bond, cioè speciali obbligazioni che gli istituti di credito appunto potranno emettere per ridare ossigeno ai propri coefficienti patrimoniali. Ma come funzionano queste obbligazioni? Si possono mettere a confronto con le obbligazioni bancarie che vengono sottoscritte allo sportello tradizionalmente dai risparmiatori italiani? Questa mattina abbiamo organizzato un Salvadanaio per fare chiarezza su questi punti, anche perché la norma che dovrebbe disciplinare l'emissione di Tremonti Bond non è ancora dal punto di vista legislativo perfettamente compiuta, quindi ovviamente facciamo un punto della situazione in base a quello che sappiamo adesso con l'avvocato Luca Zitiello, studio Zitiello e Associati, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Matteo Trotta, analista finanziario della società Consultic. Per il panorama di mercato legato alle obbligazioni bancarie in circolazione, quanto rendono questi strumenti e quanti ce ne sono anche in circolo, che rating hanno e come si fa anche a cercare di capire se è uno strumento adatto al nostro profilo di risparmiatore. Trotta, buongiorno. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori, 349 238 6666, il numero per i messaggi. La borsa, allora, la giornata ieri è stata molto brillante, è stata decisamente scoppiettante a Wall Street. Gli indici americani hanno chiuso con rialzi del 7%, applaudendo così al piano Geithner che è stato comunicato ieri nei dettagli, questo piano che permetterà all'amministrazione americana di liberare le banche dai cosiddetti asset tossici. È un piano tra l'altro piuttosto complicato che vede anche la collaborazione di investitori privati. Ieri su questa prospettiva, vi dicevo appunto, il mercato azionario ha brindato letteralmente, era andata molto bene anche l'Europa. Stamattina l'Europa era partita di nuovo piuttosto bene, poi c'è stato un rallentamento, un indice è negativo, adesso Londra sta perdendo un punto, mentre dopo un attimo di incertezza adesso di nuovo si riportano sugli indici europei. Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,46% e Milano guadagna lo 0,10% sull'S&P MIB. E sono ancora i titoli bancari protagonisti di queste sedute. Praticamente ogni giorno raccontiamo la stessa cosa, sembra sempre lo stesso copione, cambiano solamente cambia solo l'ordine degli addendi. Mediolanum più 9,79% per quello che riguarda il miglior titolo di Piazza Affari. Adesso il gruppo dovrebbe comunicare i suoi conti del 2008, così come farà il Banco Popolare più 9,44%, una delle banche di cui parleremo questa mattina citandola solo rapidamente per il fatto che è stata la prima appunto ad alzare il velo sulla sua intenzione di chiedere Tremonti Bond. A distanza segue la Popolare di Milano, ne chiederà 500 milioni secondo quanto dice il Sole 24 Ore questa mattina. Il titolo a Piazza Affari appunto guadagna 2 punti e poi più 1,8% per Mondadori, per Alleanza, per Generali, 1,5% di rialzo per Prysmian, per Snam Rete Gas e per la ex Autostrade. In discesa invece Unipol perde il 3%, Intesa era partita molto bene stamattina, ha ripiegato, perde il 2,5% e ritorna sotto i 2 euro. Lottomatica meno 2,27, CIR da ieri nell'S&P MIB perde l'1,8%, perde quasi 2 punti anche Fiat, meno 1,5% per Buzzi Unicem, Tenaris e Pirelli. Euro su dollaro 1,3555, il petrolio fra i 52 e 53 dollari al barile. Una notizia volevo segnalarvi perché chissà che cosa c'è dietro questo segnale, come va interpretato questo segnale. Dopo 27 cali consecutivi, la corsa al ribasso dell'Euribor a 3 mesi, questo tasso interbancario che è uno dei principali parametri di riferimento per i mutui a tasso variabile nel nostro paese ma anche in tutta Europa, il tasso che le banche appunto applicano fra di loro per i prestiti di depositi, si è arrestata questa corsa al ribasso. Oggi il tasso a 3 mesi è rimasto invariato all'1,56%, mentre a quanto pare sta tornando tornando a risalire leggermente, l'Euribor a una settimana, e quello a un mese resta all'1,17%. Cercheremo magari nei prossimi giorni di dare un'occhiata anche a questo fenomeno e soprattutto che cosa potrà succedere per i mutui. Speriamo che insomma questo sia solo poco più che un assestamento. Lasciamo i mercati, andiamo al tema di questa mattina, parliamo di obbligazioni bancarie, partendo però dai Tremonti Bond. È passato un mese da quando il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, ha firmato il decreto che dà il via libera all'emissione da parte del sistema bancario dei cosiddetti Tremonti Bond. Questi strumenti, previsti dalle misure governative anticrisi varate per rafforzare il patrimonio delle banche italiane, sono speciali obbligazioni subordinate che, una volta emesse dalle banche, saranno sottoscritte dal Tesoro e dovranno essere rimborsate appena la crisi sarà rientrata. Come contropartita, le banche pagheranno per i primi anni una cedola annuale compresa tra il 7,5 e l'8,5% che crescerà gradualmente. A fronte di questa disponibilità, il Tesoro chiede impegni precisi agli istituti, in particolare quello di favorire il credito alle imprese e alle famiglie. Questo significa che dovranno dare un contributo finanziario per aumentare le risorse da mettere a disposizione per il credito alle piccole e medie imprese, per i lavoratori in cassa integrazione o per quelli che percepiscono il sussidio di disoccupazione. Tra le richieste ci sono anche la sospensione del pagamento della rata di mutuo per almeno 12 mesi, la promozione di accordi per anticipare le risorse necessarie alle imprese per il pagamento della cassa integrazione e l'adozione di un codice etico. E gli istituti di credito si stanno già mettendo in fila alla Cassa del Tesoro. Il primo è stato il Banco Popolare, che ha presentato formale istanza per l'emissione di Tremonti Bond per un ammontare di 1 miliardo e 450 milioni di euro. Quindi è stata la volta di Unicredit, con ben 4 miliardi di bond, che però saranno ripartiti fra Italia e Austria, probabilmente con un peso maggiore per la tranche austriaca. Anche Intesa San Paolo farà ricorso a 4 miliardi di Tremonti Bond e la prossima potrebbe essere Banca Montepaschi Siena. Ma come si collocano sul mercato questi prodotti? Riguarderanno anche i piccoli risparmiatori? E che differenze hanno con le obbligazioni bancarie già in circolazione? 800 24 00 24 è il vostro numero verde, il numero verde a vostra disposizione per rivolgere, se vorrete, le vostre domande ai nostri ospiti di questa mattina, domande che potrete scrivere anche al 349 238 6666 e vedo già, noto da quello che ci sta arrivando, che più che conoscere la dinamica del rapporto tra banche e Ministero dell'Economia in questa fase di emissione di Tremonti Bond, il tema sul quale gli ascoltatori vorrebbero soffermarsi è quello invece della sospensione dei mutui perché si trova in difficoltà. Avvocato Zitiello, questo è uno dei punti caldi che ancora, di cui ancora non si è completamente sciolta la riserva. No, infatti è in via di definizione il protocollo tra il Ministero del Tesoro e l'ABI, protocollo nel quale dovrebbero appunto essere definiti i presupposti che le banche hanno per accedere alle emissioni di Tremonti Bond, e nei presupposti vi è appunto quello della sospensione della rata del mutuo. Questo è chiaro per un anno, sono in via di definizione i requisiti che possono portare poi a questo provvedimento a favore dei soggetti che abbiano un'abitazione principale e che debbano rimborsare il mutuo ma che lo vogliono sospendere per la durata di un anno. Quindi sono i famosi presupposti legati alla disoccupazione, alla cassa integrazione o comunque dei requisiti oggettivi che creino anche delle parità di condizioni fra i risparmiatori. Tra l'altro questo protocollo fra Ministero dell'Economia e ABI avrebbe dovuto essere siglato proprio la settimana scorsa, invece ancora non abbiamo notizia. Forse questo è proprio uno dei punti caldi sui quali non dico che non si trovi un accordo, ma probabilmente deve essere disciplinato con l'accordo pieno da parte di entrambe le parti, per cui forse c'è qualche difficoltà, ma non lo sappiamo, per cui direi di lasciare questi commenti a questa fase. Tra l'altro alcune delle banche, in particolar modo Unicredit, che faranno ricorso ai Tremonti Bond, hanno già varato nei mesi passati dei progetti per permettere alle famiglie che sono in difficoltà, che hanno perso il lavoro, che si trovano in uno stato di cassa integrazione, di interrompere il pagamento del mutuo. C'è un progetto che si chiama Insieme 2009, questo lo dico perché magari una banca come questa cerca anche di dirlo al Ministero dell'Economia, noi l'abbiamo già fatto, quindi che senso ha rifarlo? Non so, Avvocato Zitiello, se vuole commentare anche questo aspetto. Ma probabilmente da intendere appunto come esempio fatto da Unicredito, che potrebbe ispirare proprio la redazione dei criteri del protocollo. È evidente però che indipendentemente dalle iniziative individuali anche dei singoli istituti di credito, essendo un fenomeno sociale ed essendo un fenomeno che riguarda tutto il mercato finanziario italiano, si sente l'esigenza di agganciare questa operazione alla redazione dei criteri obiettivi. D'altra parte questi bond proprio nascono con delle caratteristiche particolari. Intanto sono molto poco simili a dei bond e molto più simili in realtà a delle azioni. Infatti adesso ci arriviamo. Cominciamo allora subito col dare la definizione delle caratteristiche dei Tremonti bond. Intanto si dice che siano dei titoli subordinati. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che questi titoli, nel momento in cui la banca dovesse andare in liquidazione volontaria, ma peggio ancora dovesse andare in default, vengono sostanzialmente, il meccanismo di rimborso viene assimilato attraverso il meccanismo della subordinazione al capitale, il che vuol dire in parole povere che quando una società va in fallimento, evidentemente essendo subordinato al pagamento degli altri crediti sulla massa fallimentare, questi titoli verrebbero per ultimi insieme alle azioni. Sono poi titoli ibridi, perché sono una via di mezzo fra obbligazioni ed azioni. Perché sono una via di mezzo? Sono una via di mezzo perché nascono come titolo obbligazionario, tant'è che infatti viene previsto il pagamento di un interesse. Però a sua volta il pagamento dell'interesse è subordinato al fatto che vi siano utili della banca, quindi è in conto utili della banca, e quindi peraltro non vengono pagati gli interessi qualora la banca non faccia utili, non distribuisca utili, meglio, sotto il profilo tecnico. Sono poi perpetui, abbiamo letto. In realtà prima o poi le banche dovranno restituirli questi soldi, però teoricamente se la crisi durasse all'infinito, speriamo di no naturalmente, hanno però anche questa possibilità, c'è anche questa ipotesi. Sì, dal punto di vista così sostanziale potremmo dire perpetuo, dal punto di vista giuridico è impossibile. Il decreto chiarisce che la durata di questi titoli ha un termine, e il termine massimo è quello della durata della società emittente. Quindi è anche quindi nessuno è perpetuo in realtà a questo mondo, neanche le società. È vero che la durata delle società sono molto in là con gli anni, e peraltro nello statuto può essere rinnovata e procrastinata la durata della società, quindi sostanzialmente sono dei titoli molto lunghi. Ma qualora scattasse, come dire, l'ipotesi della difficoltà per la banca di rimborsare questa emissione obbligazionaria, scatta, come dire, la conversione in azione da parte di chi la sottoscrive, che è il Ministero dell'Economia. Sì, in realtà però la conversione è a distanza dell'emittente, cioè non è a distanza del sottoscrittore, ma è a distanza dell'emittente. E però il sottoscrittore, che è il Ministero del Tesoro, è tutelato dal fenomeno della conversione, perché evidentemente la conversione può avvenire attraverso alcuni parametri di azioni sottostanti, quindi viene garantito una percentuale di azioni sottostanti in caso di conversione, e quindi in realtà in caso di conversione il Ministero del Tesoro ottiene un rendimento non sotto forma di soldi ma sotto forma di titoli. Insomma, tutto questo per far capire che non è che stiamo parlando di una questione molto molto semplice, è una questione della, come dire, che deve essere gestita quasi interamente nel rapporto fra banche che in questo momento fanno richiesta di queste emissioni obbligazionarie e Ministero dell'Economia. Siamo sicuri, Avvocato Zitiello, che questi prodotti non finiranno tra il pubblico indistinto? Ecco, questo è importante da sottolineare. Sostanzialmente questo provvedimento, che ricordiamo è il primo provvedimento che peraltro viene utilizzato dalle banche, perché sono stati offerti dallo Stato altre possibilità: la possibilità di sottoscrivere delle azioni prive del diritto di voto, la possibilità che le banche mettessero delle obbligazioni garantite dallo Stato, la possibilità che le banche mettessero delle obbligazioni che potessero essere scambiate con titoli di Stato. Sono provvedimenti che ci accompagnano dall'ottobre scorso fino ad oggi, però questo è il provvedimento su cui le banche hanno per la prima volta sostanzialmente manifestato interesse. È importante chiarire che esistono sostanzialmente tre tipi di Tremonti bond. Ci sono e che si distinguono per queste caratteristiche. Dipenderà cosa sceglieranno la banca. La banca potrà scegliere di emettere dei titoli con un rendimento più basso, quindi vuol dire sostanzialmente la banca dovrà pagare meno interessi, ma nel caso di rimborso anticipato fatta dalla banca gli costerà più caro rimborsare. Cioè devono pagare una penale? No, una penale, un prezzo di rimborso più alto. Poi una sorta di penale, se si vuole, ma insomma espresso in termini di prezzo di rimborso. Questa è la prima categoria. La seconda categoria, quella dove la banca per emettere il titolo spende un po' di più, tipo il primo anno la differenza è fra 7,75 e 8,5%. Che abbiamo citato nella scheda. Esattamente, sì. Quindi invece del 7,75 l'8,5%, però in caso di rimborso, i primi anni può rimborsare al nominale. Quindi ho una capacità da parte della banca di pagare di più all'inizio gli interessi, mi costa di più l'emissione del prestito, ma ho la possibilità di rimborsarlo a condizioni più favorevoli. Queste sono le due categorie espresse nel decreto e nel prospetto allegato al decreto, che dove il Ministero dice ci sono delle condizioni di economicità. Poi però il decreto dice anche che l'operazione ha dei contenuti di economicità anche a rendimenti più bassi di quelli che abbiamo visto ad ora, cioè la banca può spendere meno per finanziarsi, quindi meno del 7,75 o meno dell'8,5%, però comunque viene posto un limite che non può essere meno dei BPT trentennali più 200 punti base, quindi più il 2% in buona sostanza. Nel caso in cui sottoscrittore di queste obbligazioni non sia solo il Tesoro, quindi non sia solo lo Stato, ma il 30% sia riservato, il decreto dice, a soggetti privati, di cui fra l'altro di questo 30% il 20% devono essere non azionisti appartenenti al gruppo, quindi veramente soggetti privati diversi da quelli che facciano parte dal gruppo bancario. È stata data una definizione di questi investitori privati? Non è stata data una definizione di soggetti privati. Nella stampa specializzata giustamente si è fatto notare come però questo tipo di obbligazioni, in funzione del fatto che sono delle obbligazioni subordinate, delle obbligazioni callable, cioè possono essere convertite prima, delle obbligazioni che i cui interessi possono essere subordinati al pagamento, alla sussistenza di utile e così via, sono sostanzialmente dei titoli complessi. Essendo dei titoli complessi, È bene che non finiscano. In ragione del principio di adeguatezza degli investimenti, non sono certo destinati a soggetti che non siano in grado di capirli. Perché ricordiamo che secondo la MiFID il primo criterio è la conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari. Poi dopo viene l'adeguatezza, ma il primo aspetto è un aspetto proprio di appropriatezza, cioè se io ho sufficienti nozioni per capire di cosa si tratta. Matteo Trotta, non mi sono dimenticata di lei e naturalmente adesso comincio a coinvolgerla, perché poi vorremmo affrontare anche, come dire, un altro aspetto legato più in senso generale al tema che stiamo analizzando questa mattina, il tema dell'obbligazione bancaria, quella che invece tradizionalmente viene acquistata dal pubblico indistinto. Vi leggo che cosa avevo scoperto ascoltando un'audizione in Senato del direttore del Servizio Studi della Banca d'Italia, Giorgio Gobbi, che aveva stimato quanti italiani avessero in portafoglio uno strumento finanziario di questo tipo. Adesso non esiste esattamente una cifra rispetto a questa distribuzione, però Gobbi aveva rilevato come a partire dal 2007 le famiglie italiane abbiano progressivamente concentrato i loro investimenti finanziari in strumenti emessi dalle banche, depositi a vista e a scadenza, pronti contro termine, dei quali abbiamo ampiamente parlato la settimana scorsa, e appunto obbligazioni. Trotta, in questo frangente di crisi le banche hanno fatto molto ricorso a questo strumento anche per fare un po' incetta di liquidità che è venuta tanto a mancare negli ultimi mesi? Diciamo che questa è stata una via parallela intrapresa dalle banche in attesa dei Tremonti Bond. Sono state emesse numerose tranche obbligazionarie, quindi prestiti obbligazionari, venduti sia a investitori istituzionali sia alla clientela retail, quindi alla gente che va allo sportello. Diciamo che in funzione del mercato finalmente il rischio viene remunerato, nel senso che i rendimenti di queste obbligazioni sono molto molto elevati rispetto a qualche anno fa. Tipo, ci può fare qualche esempio rispetto a quegli strumenti che troviamo in circolazione adesso, per esempio in Italia? Allora, se prendiamo come riferimento i titoli di Stato italiani che a 2-3 anni rendono ormai tra il 2-2,15%, queste obbligazioni rendono circa il 4%, quindi un punto e mezzo, due punti in più. Se allunghiamo le scadenze, quindi andiamo sui 5, 6, 7 anni, Allora, il rendimento che queste emissioni obbligazionarie danno in più rispetto ai BTP, per intenderci, è pari al 4%. Ecco, quindi le banche, insomma, ne hanno vendute parecchie anche per, come dire, per effetto di quell'altro fenomeno che si è verificato negli ultimi tempi, trotta, quei massicci disinvestimenti dai fondi comuni di investimento. Queste, al di là, diciamo, delle necessità in cui le banche si sono trovate di recente, c'è stata anche una spinta, no, provocata da questo fenomeno? Beh, questo forse è inferiore rispetto all'esigenza della banca di recuperare soldi liquidi sul mercato. In una fase di credit crunch l'obiettivo principale era recuperare soldi freschi sul mercato. È ovvio che il costo, l'onere di andare direttamente sul mercato era quello di pagare tassi di interessi molto più elevati. Allora, a me piacerebbe che qualche ascoltatore, se volesse, ci raccontasse se ha deciso di investire in un'obbligazione bancaria di recente, quale ha scelto, in base a che criteri, che tipo di consulenza anche gli è stata data in banca. Eccoci ritrovati a Salvadanaio questa mattina. Visto che le principali banche italiane sono uscite allo scoperto negli ultimi giorni e hanno formalizzato la loro intenzione di chiedere i cosiddetti Tremonti Bond, e allora noi stamattina cerchiamo di capire di nuovo, ci siamo già tornati su questo argomento, oggi ci ritorniamo perché ha suscitato anche un certo grado di interesse fra i nostri ascoltatori, per capire come funzionerà questo rapporto fra banca e Ministero dell'economia, per capire anche se questi strumenti che in qualche modo vanno, no, che in qualche modo, che andranno a ripatrimonializzare le banche in difficoltà ovviamente per la crisi finanziaria, se sono anche strumenti di investimento che finiranno tra la platea del pubblico indistinto. Insomma, sono tanti gli aspetti da considerare, e accanto a tutto questo abbiamo messo insieme anche il tema dell'obbligazione bancaria come scelta di investimento, almeno nella sua forma tradizionale, che non ha nulla a che fare invece con il Tremonti Bond. 800 24 00 24 è il numero verde a cui vi ho invitato appunto a chiamare, per anche raccontarci la vostra esperienza di investitore in un'obbligazione bancaria, perché vi è capitato anche di scegliere uno strumento di investimento di questo tipo. E allora cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Giovanni da Potenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, cortesemente, io sto intervenendo per fare due riflessioni, una che riguarda i Tremonti Bond, sì, e l'altra appunto per rispondere al suo quesito circa l'esperienza delle obbligazioni bancarie private. Sì. Per ciò che attiene i Tremonti Bond, non so se nella parte finale dell'intervento del suo esperto in parte mi è stata risposta, diciamo, a ciò che io sto per chiedere, però mi chiedevo, trattandosi di titoli che vengono ad essere sottoscritti dallo Stato italiano a fronte della corresponsione di un tasso di interesse particolarmente appetitoso in questo momento, mi chiedevo come mai non è stata pensata anche la possibilità che questi Tremonti Bond potessero essere sottoscritti da quei risparmiatori che negli ultimi anni, esclusivamente da quei risparmiatori che negli ultimi anni hanno perso parte dei propri risparmi avendo investito in quelle obbligazioni societarie di cui sappiamo la triste fine che abbiano fatto. Credo che sia un'opera meritoria in questo caso, in grado di mettere questi risparmiatori almeno nelle condizioni di riconoscere, come dire, una parte di quanto abbiano perduto in questi anni. Giovanni, poi la seconda parte invece della domanda, lei è un investitore in obbligazioni bancarie? Allora, le dico che recentemente ho fatto un acquisto di un'obbligazione bancaria, se vuole le dico, si tratta dell'Unicredit, sì, e l'ho fatta essenzialmente sulla base di queste due considerazioni. La prima è che le agenzie di rating danno un merito creditizio all'Unicredit che è uguale a quello dello Stato italiano, per cui ha più, quindi automaticamente se io investo in Unicredit ho esattamente la stessa rischiosità che se investissi sui titoli di Stato italiani. Prima considerazione. Sì. Seconda considerazione è che essendo l'Unicredit debitore in questo momento proprio attraverso i Tremonti Bond dello Stato italiano, non può fare lo scherzetto di far perdere i quattrini ai propri risparmiatori privati. Allora Giovanni, io la ringrazio e la saluto. Io credo che intanto questo scherzetto non lo farà nessuna banca, questo lo abbiamo scongiurato di pericolo, ma non lo farà nessuna banca in Italia per il banalissimo fatto, non tanto perché adesso interviene lo Stato con i Tremonti Bond, ma perché proprio abbiamo già visto che lo stato di salute delle banche italiane rispetto a tutto il panorama internazionale ne è uscito insomma in condizioni nettamente migliori. Detto questo, allora, avvocato Zitiello, da che cosa cominciamo? L'ascoltatore dice addirittura, ma insomma, visto che noi abbiamo perso tanto, mettiamo tutti insieme, lei dice... Sì, perché la domanda in realtà sono talmente unite l'una alla faccia dell'altra. La logica di questo provvedimento non è quella di andare ad attribuire un rendimento a soggetti che siano stati penalizzati, risparmiatori che siano stati penalizzati in precedenza. Non dimentichiamo che questo provvedimento sta nel mezzo della più grossa crisi finanziaria dal dopoguerra a questa parte. Una crisi finanziaria che per molti versi è una crisi di liquidità. Lei faceva riferimento al rating su Unicredito come indicatore della solvibilità. Attenzione, che il rating non funziona in questo modo, nel senso, e soprattutto non funziona nel breve e medio termine. Cioè, facciamo l'esempio di Lehman. Lehman, fino a pochi giorni dal default, aveva un rating alto, sostanzialmente appunto doppia A, singola A, uguale a quello dello Stato italiano, uguale a quello di Unicredito. Lehman non è fallita per un problema di rating, Lehman è fallita soprattutto per un problema di liquidità, cioè un cosiddetto credit crunch, quindi una contrazione della liquidità ha portato il soggetto a non poter adempiere alle sue obbligazioni, a fare aumentare da tutte le controparti gli spread, così sostanzialmente da strangolarla. Allora, questi provvedimenti, e in particolare Tremonti Bond, vanno in questo senso, cioè quello di garantire alle banche sia liquidità che patrimonializzazione. Non dimentichiamo che queste obbligazioni funzionano sostanzialmente come delle azioni, nel senso che se io sottoscrivo un bond, cioè un'obbligazione che vale 100, a scadenza mi viene rimborsato 100, salvo il default dell'emittente. In questo caso invece l'obbligazione che all'inizio vale 100 subisce l'andamento economico della banca e quindi nel caso vi siano perdite superiori a un certo limite, l'8%, si riduce il valore nominale. Quindi evidentemente anche il tasso pagato dalle banche, che è molto alto, è perché vengono emessi degli strumenti che alle banche consentono di avere sostanzialmente capitalizzazione, cioè gli aumentano i ratios patrimoniali e quindi gli consentono di fare tutta una serie di operazioni e non sono paragonabili quindi con i pronti conto termine o le obbligazioni normalmente omesse allo sportello, che invece non contribuiscono in questo senso alla patrimonializzazione della banca. È anche curioso il ragionamento dell'ascoltatore che dice, ma insomma noi anche ovviamente a fronte di un rendimento piuttosto elevato piacerebbe partecipare anche a questa attività di ricapitalizzazione delle banche, cioè in maniera molto indiretta l'ha detto, però siamo poi sempre pronti a bastonare le banche che sono in difficoltà, crollano i titoli in borsa, noi ne paghiamo le conseguenze e poi, come dire, siamo subito però pronti a fronte di rendimenti interessanti. Ecco, però c'è un principio fondamentale che i risparmiatori davvero non possono dimenticare. A fronte di un alto rendimento c'è sempre e comunque un alto rischio. Nessuno regala niente. Per cui evidentemente a fronte di questi rendimenti ci sono delle contropartite. Abbiamo detto una è quella della patrimonializzazione della banca, ma per chi sottoscrive il fatto di potersi vedere diminuito anche il nominale. Volevo sentire Matteo Trotta, volevo sentire un suo commento su questo caso di questo ascoltatore, in particolar modo sul ragionamento che lui ha fatto relativamente alla scelta dell'obbligazione su cui ha deciso di investire, al di là della banca citata, ma le chiedo appunto un commento sul ragionamento fatto dall'ascoltatore a proposito del mettere insieme il rating dell'obbligazione scelta e dello Stato italiano. Allora, c'è da dire che le principali banche italiane hanno un rating pari a quello del debito italiano, quindi dello Stato italiano, se non addirittura superiore. Però un conto è il rating, un conto è la percezione che il mercato ha del grado di solvibilità di un emittente. Il debito sovrano è sempre percepito come meno rischioso rispetto a quello bancario, che alla fin fine rappresenta una corporate. C'è da dire anche un'altra cosa, che nel momento in cui si sottoscrive un'obbligazione bancaria, poi questa obbligazione è soggetta a un mercato, quindi quando c'è un periodo di crisi è molto facile che il prezzo di questa obbligazione, quindi gli intermediari che scambiano questa obbligazione, tende a scendere, molto rapidamente. Mentre viceversa un titolo di Stato, per l'effetto del flight to quality, tende ad aumentare. Nella ricerca della qualità, sì. C'è da dire per un altro aspetto, la liquidità. I titoli di Stato sono i titoli più liquidi, cioè nel momento in cui decido di vendere riesco a vendere. Per i titoli bancari questo non accade. Quindi insomma non confondiamo le mele con le pere, il ragionamento è questo, Trotta? Esatto. Per dirla in termini molto pratici. Peraltro c'è un altro aspetto che non abbiamo ricordato e sul quale l'avvocato Zitiello mi pregava di tornare, il tema dei Tremonti Bond. Sono emissioni obbligazionarie che riguarderanno solo le banche quotate in borsa. Esattamente, non sono destinate a tutte le banche ma soltanto a quelle cui i titoli sono negoziati sul mercato regolamentato. Allora 800240024 numero verde per voi. Fabio da Roma, la stiamo facendo aspettare da un po', buongiorno. Grazie, buongiorno. Ci dica tutto. Senta, no, volevo dire, allora, per quanto riguarda l'investimento in bond, ho fatto un piccolo investimento sulle generali nel bond quinquennale, diciamo che può essere in un certo senso assimilato al settore bancario, se vogliamo, o comunque finanziario. E per quanto riguarda appunto i Tremonti Bond, così diciamo, un po' riallacciandomi anche a quello che si diceva prima, se è possibile, come è possibile, mi chiede eventualmente valutare una possibilità di fare attuare uno strumento di pronti controtermine con questi Tremonti Bond, perché un pronti controtermini che tutto sommato potrebbe anche dare agio all'emittente e poi agio molto allo Stato che per diciamo ridurre, minimizzare l'investimento e tutto sommato dedicare più liquidità ad altre, ritengo, operazioni che in questo momento sono necessarie. Allora, sì, Fabio, sento una cosa. Io devo andare adesso a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. Mi chiedo qualche volta, ma non ci dormite la notte per inventarvi tutte queste così opzioni di ingegneria finanziaria per dare, non lo so. Le chiedo un attimo di pazienza perché adesso insomma addirittura Fabio ipotizza il Tremonti Bond come un sottostante di un pronto controtermine, forse per fare in modo, insomma, ma ve li volete proprio comprare? Non c'è verso, non ne possiamo uscire da qua. Avvocato Zitiello si rimette alle cuffie e cerchiamo un po' di fare una traduzione di quello che l'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa, Fabio da Roma, chiedeva, ipotizzava, a parte il suo investimento in obbligazioni generali, sul quale magari poi chiederò a Matteo Trotta un commento, ma lui dice non esiste la possibilità di emettere pronti controtermine da parte delle banche che abbiano, io ho interpretato così la sua domanda, come sottostante il Tremonti Bond. Beh, in realtà, meglio che non capiti? Ma più che altro non mi sembra molto efficiente come operazione, perché tanto il rendimento dei pronti termine sarebbe sempre determinato fra la differenza fra l'operazione a pronti e l'operazione a termine. In più avrebbe il problema del sottostante, perché la banca sostanzialmente avrebbe come sottostante un titolo dalle stesse emessa, quindi mi sembra in realtà una complicazione. Però non credo, mi corregga poi l'analista, ma non credo con particolari rendimenti maggiori a favore del prenditore del pronti controtermine. Matteo Trotta vuole fare una correzione a Zitiello? Ma l'unica cosa che mi sento di dire è che essendo il tasso di interesse, diciamo così, non certo, perché la distribuzione dipende se la banca farà o meno utili, sarebbe un attimino difficile capire quale potrebbe essere il prezzo a termine per definire il tasso di rendimento certo a oggi. E quindi insomma avremmo a che fare con un prodotto anche piuttosto complicato, esatto, che non è neanche possibile forse strutturare. Fausto da Milano, benvenuto. 800240024, avete ancora qualche minuto di tempo per chiacchierare con noi questa mattina su un tema complicatissimo. Anche mi sto un po' arrampicando sugli specchi, ma chi ci capisce qualcosa. Fausto, buongiorno. Sì, buongiorno, io non so se ci capisco qualcosa o meno, ma mi è parsa di capire una una cosa, e cioè che alle banche questi titoli dovrebbero costare il 7,5%, quindi loro fanno una raccolta, mi è parso di capire, al 7,5%, quindi mi nascono due quesiti. Primo, agli impieghi a quanto dovranno farli? Sì, mi rendo conto che probabilmente saranno cifre ridicole rispetto al totale. E secondo, non si potrebbe mettere bond delle banche con una garanzia emessa dallo Stato a tassi di rendimento interessanti, ma senza dubbio più bassi del 7,5%. Grazie. Grazie Fausto. Allora, avvocato Zitiello, insomma, se le banche devono riconoscere al governo, allo Stato, un tasso di interesse così alto, poi forse un po' gliela faccio io la domanda in diretta, la ripercussione anche sulla clientela indistinta, qual è in termini poi di... No, ma non è... l'osservazione del radioascoltatore è molto interessante, ma non coglie esattamente il punto, cioè anche qui bisogna distinguere le pere dalle mele. Cioè, quando le banche fanno raccolta, normalmente la fanno con certificati di deposito, obbligazioni, ponti conto termine, che abbiamo visto i rendimenti che hanno, perché sono rendimenti di mercato. Questa è una quindi queste sono, diciamo, le pere. Questa è una raccolta diversa, sono le mele, perché è una raccolta che non serve soltanto a avere denaro fresco per le banche per poterlo poi riprestare ai clienti, ma è una forma, ripeto, di patrimonializzazione, di capitalizzazione delle banche in funzione della natura ibrida dell'investimento. Aumenta i ratios patrimoniali della banca. La banca, se scende sotto determinati ratios patrimoniali, non può più fare una serie di operazioni. Quindi hanno una funzione diversa. Sono dei requisiti richiesti dalla Banca d'Italia, quindi non è che... Esattamente, hanno una funzione diversa e quindi hanno un costo di raccolta non paragonabile rispetto alla raccolta ordinaria che viene fatta sul mercato dalle banche. Enzo da Savona, benvenuto. Sì, buongiorno. Volevo un'informazione sulle obbligazioni perpetue. Io ne ho due in portafoglio, comprate circa 4 anni fa e pagate 100. Sì. E diciamo che a distanza di 4 anni il loro valore attuale è intorno a 35. Volevo capire un attimino il motivo di questa quotazione così bassa e poi capire anche qualcosa sul rimborso delle perpetue, perché all'epoca quando le acquistai mi ricordo che la banca mi aveva detto che dopo 10 anni c'era una call a favore dell'emittente che poteva richiamare il titolo. L'emittente chi è, mi scusi Enzo? L'emittente sì, sono due banche, sono Unicredit, lo posso dire, no? Sì, e Crédit Agricole. Uh-huh. E niente, mi diceva che c'era un obbligo morale della banca a richiamarlo dopo 10 anni. Ad aprire insomma una finestra di uscita in qualche maniera, sì. Esattamente. Tra l'altro, sugli obblighi morali delle banche, Enzo, potremmo qua aprire un'altra parentesi. Assolutamente, però mi dicevano anche che non era mai successo che una perpetua non fosse stata richiamata dall'emittente alla prima occasione possibile. Però mi pare di capire che così non è e che sto titolo me lo potrei anche tenere sul groppone per chissà quanti anni. E beh, d'altronde Enzo, se ha comprato qualcosa di perpetuo aveva una prospettiva di lunghissimo termine di fronte a sé, o no? Altrimenti avrebbe comprato qualcosa di molto più ravvicinato nel tempo in termini di scadenza, di più liquido. Comunque adesso, a parte le battute, sentiamo un po' Matteo Trotta, se non lo metto troppo in difficoltà, come messo in quanto a conoscenza di obbligazioni perpetue. Adesso io non so di queste due banche, ma in termini generali anche dello strumento. È vero che in genere dopo una decina d'anni possono aprire un'opzione per poter disinvestire? Sì, allora le obbligazioni perpetue sono molto simili, diciamo, a una forma del Tremonti Bond, cioè non hanno possono non avere una scadenza predefinita e sono dei prestiti quindi ibridi di capitalizzazione, quindi subordinati, e dopo 10 anni hanno questa opzione call, cioè la banca ha la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario. Tra l'altro questa opzione non si ha solo dopo 10 anni, ma a partire dal 10° anno, solitamente ogni trimestre. Sono fatte in questo modo, hanno un tasso di interesse molto elevato per i primi 10 anni, solitamente a tasso fisso, dopodiché si indicizzano a tasso variabile più un forte spread, quindi il rendimento è sempre molto molto elevato, sia nella parte fissa che variabile. Ecco, quindi insomma non è niente di strano quello che ha acquistato il nostro ascoltatore. No. Il tema è perché i prezzi sono scesi così tanto, ma credo che l'abbiamo spiegato anche all'inizio. Beh, i prezzi sono scesi così tanto perché ovviamente si è allontanata la probabilità che l'emittente rimborsi anticipatamente questo prestito, per cui attualmente il mercato sconta che questo rimborso avvenga dopo il 2040, immagino. E prezzo così basso perché i tassi di interesse a quale viene scontato oggi questo titolo in funzione dell'emittente bancario a lungo termine sono molto elevati. Allora, i quesiti che si sono, come dire, proposti questa mattina a Salva Danaio, che ha voluto affrontare il tema dei Tremonti Bond, sono molti, probabilmente non siamo riusciti ad accontentare tutti. Avvocato Zitiello, ci mancano 30 secondi di tempo, c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire, anche se ancora in realtà dal punto di vista legislativo e normativo dobbiamo aspettare qualche altro passo, soprattutto questo protocollo fra Ministero dell'Economia e ABI? Potremmo menzionare il fatto che oltre al protocollo è previsto anche un codice etico che la banca deve sottoscrivere, e fra l'altro uno degli elementi del codice etico è un tema di grande attualità in questo momento, che è la remunerazione dei manager. Ah sì, infatti, allora non mancheremo quando avremo anche qualche ragguaglio in più rispetto ai codici etici che le banche saranno chiamate appunto a sottoscrivere per avere il diritto anche ai Tremonti Bond, non ne mancheremo di ritornare su questi temi. Grazie a Luca Zitiello e a Matteo Trotta per essere stati con noi, Valeria Coffario e Gaia Romani per la collaborazione in redazione, oggi Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo domani mattina alle 8.15 a Soldi e Dintorni, alle 12 a Salva Danaio, parleremo del piano casa, anche noi di Salva Danaio. Da Deborah Rosciani, buona giornata. Salva Danaio.